sveglia. Licor sul treno della mente in fretta scivolò in una profonda roccia che sarebbe poi tornata in me tra la penombra che distingue questi giorni, queste notti. Torno tutto immobile, in mezzo a quella notte che rimane amica e viene lucida. Non riesco più a dividere, il sogno è sicuro.